Taranto. C'è gente al 23, io stavo spazzolando e per caso ho trovato Pomponio e Franco 23. Poi ho premuto qua, cioè ho visto una portante e poi è ripreso tu, eccetera. Ho visto la giornata brutta, mamma mia, c'è un silenzio di tomba, sono tutti chiusi in casa. Buonasera. Ciao caro caro. Chi è, chi è? Io sono caro caro. Chiamato Denvari a 9.50. Allora Natalino. Natali tu sei? Perché? A che mi sono gabbizzato. Fa finta di niente, tanto Marco non lo sa che sono io. L'uomo del mistero. Tu sì che mi carmini il rito. Sì. Io rimango in ascolto, dai, sul 23 o qua o se andate là, eccetera. Credo che siano in FM là, però li sento sia in AM che in FM, non capisco bene dove siano. Boh. In FM mi sembra che sono. Deia, vado all'ascolto, dai, che tanto adesso devo fare roba in cucina. Una buona serata a tutti. E altrettanto, io ho già fatto in cucina. Io ho già preparato il sugo. Da lì. Tutto il fuso orario della costa, della East Coast, gli Stati Uniti. Gava gava, anch'io ho fatto il sugo per domani. Aspetta che stasera, aspettano le bavette al ragù. Ce l'ho anche io, se vuoi, ma domani ci giorni, che domenica. No, io dopo vi faccio una bella magnata di bavette al ragù, che ne sono, è ancora presto. Una bella magnata di bavette al ragù e via. Io mi ho fatto, non bene, no, quelli e gli altri, come tortiglioni. Col sugo con i pomodori freschi mi ho fatto, mamma mia. Anche sono buone già. E domani tortellini alla panna. Buona reddito. Noi oggi tortellini alla panna. Fa poco, mi? Cioè noi mangiamo, prendiamo tardi, lo sai. Voi sì che siete golosoni. Ciao, ma io sono gullicchinoso, me, compare di un bel po' di chi si brecchi. Dici che cosa ne burro me. Favette al ragù. Ho capito bene, ma si possono fare in rosso le favette, noi le abbiamo fatte sempre in verde. Quelle essiccate, quelle secche che poi metti a ammorbidire col bicarbonato, poi aglio e prezzemolo e olio ovviamente. Ma chi ha parlato di favette? Bavette! Ah, bavette! Io ho detto, ma com'è possibile le favette al ragù? Che roba strana è! Ma lo sai che ci stavo? Ecco, forse può darsi che c'è una ricetta per cui siano buone anche in rosso. Ma cosa si dice? Bavette al sugo di ragù! Gesù, il mio dito! Vabbè, io tengo il volume basso, avevo capito favette, insomma riaga, ecco, le favette al ragù, deve essere una ricetta nuova, vai Natali, pure la, sto perdendo pure l'udito adesso, non ce l'ho la vista. E a chi male sono le favette al ragù? No, no, io già sono di, a me piace tutto, quasi tutto, già sono di bocca buona. Dovrei evitare il pomodoro in questo periodo perché c'è un po' di acidità, un po' di bruciore, non acidità, bruciore di stomaco. Il pomodoro me lo aumenta. Dovrei evitare il caffè e tante cose, solo che come si fa? Vabbè, i maccarroni sono buoni, quella è la ragione. Oggi l'ho fatto, ho cambiato, invece di farlo con le bottiglie, l'ho fatto con i pelati oggi, che esce più buono lo sugo. Non tengo niente alle bottiglie, ma fatto a chi da manera è più buono, che ci vuole lavoro a farlo, però li possiamo fare, tricchi tricchi tricchi. Sì, poi sono buoni anche i pezzettoni di... mi piace sentire anche i pezzi di pomodoro, a pezzettoni, capito? Nel sugo. A qualcuno piace più liquido, cioè più uniforme, a me piace anche il pezzo del pomodoro così a dadini, no? Pare fa morire quello, poco è buono. Cazzo qua, te ne lecchi anche i baffi. Anche le dita, tipo invernissimi. No, ma io adoro molto la polpa, di pomodoro. Cioè, quello rustico, la patata rustica, l'adoro molto. Però oggi ho voluto farmelo io, ho voluto prendere cioccolato a fare a mano, come ti si fa di una bocca, no? Con chi si cazzo i robottini. E poi lo tac, tac, tac. Io ho preso quelli piccolini, quelli, come cavolo si chiamano, quelli a grappolo, e li ho fatti col coltello, altro che coso, oh yeah. E cosa è andata lì? I pomodori, ho fatto roba di sugo, pauroso. Ah, quello già è vero, già. Ma io adoro molto il coso a petettone. Però oggi mi sono voluto fare un sugo io, manualmente, come si faceva una volta, con quell'affare, piano piano, gli rendi, la seconda abbassata, così, capito? E lì, cioè, quel palato non devi aggiungere neanche acqua, non devi aggiungere perché il palato ce l'ha già l'acqua sua, è tutto naturale, capito? Invece con quelle bottiglie è troppo asciutto. Sì, lo so. Devo fare anche le polpette, devo fare, mamma mia. Adesso non so se farle al sugo o fritte. Il massimo della perversione, prima fritte e poi messe nel sugo, mamma di turchi. Quello è essere perversi proprio. No, sono buone anche chi da manera. Guarda, spesso le facciamo così, no? Siccome le vogliamo sia fritte sia al sugo, o ce le facciamo un po' e un po', oppure prima fritte e poi messe nel sugo. Mamma di turchi, non ce n'è. Ma adesso sono buone già. E via. Dai, ragazzi, io stacco che devo andare a mettere mano in cucina, sono già le 6, caspita, non me ne ero accorto, ho sentito le campane di Madre Ecclesia, porca miseria, già le 6, va bene, ciao, buon proseguimento di serata, ciao a tutti. Ma sei guzzinato? Dico anche a lei. Ciao, ci risentiamo. Alla prossima. E dietro disposizione di mamma le cose un po' più... Ehi, roba semplice, dai, no, non è che sia così bravo. No, io ci so cucinare già. Per esempio, io, a me piace il pomodoro fresco o quella dadini, però noi spesso per questioni di tempo, per rotture di palle, usiamo sughi pronti anche, capito? Alla matriciana, alla ricotta. Certo, non è la stessa cosa di farlo in casa, ma non è che siamo... Se no devi stare 2 ore a cucinare e in 2 minuti ti spazzoli tutto. Per comodità già un po', non dico pronta, ma quasi. Pure noi qualche volta facciamo così. Sto prendendo quelli casaro, sono buoni, come sugo pronto. Pure io qualche volta quando è veloce, però ho fatto in casa la sagumba, lascia perdere. Lo so che ci vuole tempo, cioè tempo ne abbiamo, è che non passare troppo a fare, poi per in 2 minuti, in 1 minuto ti spazzoli tutto, alla fine, va bene, riprendi a Tarino, ciao, quelli ti per me momentaneo, ciao. Ciao. Buon proseguo. Oh Natalia, ma tu poi avevi recuperato una cosa analoga alla frusta nera? No, negativo. Io ho quella là, ma me la voglio mettere sul frigorifero, quella con la base magnetica, perché ho già l'attacco io per quella, per la frusta nera. Non sai perché? Avevo capito che ce l'avevi anche tu la frusta nera, invece forse mi sto confondendo con Franco. Franco ce l'ha, ed è il radiale della... Io dovevo fare questa benedetta prova comparativa da lontano, e che quando io vado a Porto Torres la mattina, tipo giovedì che c'è il mercatino, entro in radio e non c'è mai nessuno, e quindi non posso fare la prova comparativa tra quella mia nuova da 1 metro e la frusta nera da 1 metro, capito? Non c'è mai nessuno, cioè quando esco con le macchine al baracchino non c'è mai nessuno, mi rompo le palle e prova, non riesco a farne mai però. Ho capito, l'ha fatta a coso, Franco da Trentino arrivava di lusso. Sì, gli avevo dato un controllo. Allora, che io mi ricordi, c'era un punto S di differenza, 6 dB, avevo detto 6 dB sono, non sono pochi, Allora, con un baracchino mi arrivava tipo da 5 a 6, con l'altro smitter dell'altro baracchino era da 6 a 7, e c'era però costante questo punto S di differenza. E comunque 6 decibel sono un bel mio a parità di antenna, sono un bel, un Santiago mi. Lo so. No, perché lui l'altra volta stava spiegando, io stavo ascoltando il ricevitore, lui ha detto che c'erano due Santiago di differenza, invece no, era uno. Diciamo che i due baracchini diversi davano due segnali diversi, capito, lo smitter, però la differenza era di un punto S. Non è poco, un punto S. E io. E poi mi stavo guardando queste Sirio, le vengono tuttora, cioè addirittura c'è con la doppia, con il doppio filamento elicoidale, e quindi guadagna ancora di più, c'ha più larghezza di banda, eccetera. Poi ci sono quelle da 3 ottavi di pollice, l'attacco da 3 ottavi, quello che usano in America, camionisti soprattutto. E ci sono anche più lunghe, 1,40 m, 1,20 m, ce ne sono di tutti i tipi. Magari funzionano anche meglio, chi lo sa. Va bene, dai, stacco, ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao Marco, ciao. E più lunga è l'antenna, è più rende. Teia. Poi si dice che se abbia la bobina a metà altezza o due terzi, perché in realtà quel radiale ce l'ha due terzi dell'altezza la bobina, no? E dice che sia meglio. Poi se invece di quelle che hanno una carica, diciamo, non bobina, però è avvolta in modo elicoidale, larga però, no? A carica distribuita, che però non è una bobina, già hai capito, no? Le spine sono molto allontanate, quello è il massimo della resa, dovrebbe essere. Perché raggiungono la, diciamo, la lunghezza giusta. Sì, sì, praticamente un quarto d'onda di lunghezza di conduttore messo a spire abbastanza distanziate in modo da non formare proprio una bobina di adattamento, ma così, già hai capito, elicoidale, quelle certo devono avere una certa lunghezza, 1,5 m almeno, se no non, le spire sono troppo ravvicinate e diventa una bobina poi. Tanto le bobine danno, che sarebbe, danno sempre un po' di perdita, capito? Soprattutto quella alla base, i sistemi di adattamento a bobina danno sempre perdita. Va bene, chiudo, vai Antonio, ciao. Sì, ciao, ciao, ciao, ci sentiamo. Andiamo. Vai a preparare, a mandrigare, vai. Adesso devo fare un bipolo, cazzo, con due cariche paurose. Che cosa si tratta? E non te ne faresti nulla tu, Antu, serve a me per ascoltare, capito? No, non ne faccio niente, no. Poi non è per qui, è per... È in cantina, In cantina? Ehi, per ascoltare la cantina. Ma ti aggiungo un preso nulla che c'è cantina. Io conosco la cantina di Rovino, ma... E vabbè, già te lo dirò di persona. Io ascoltare quello che non succede niente, me. Non è che uno si lo mangia, ne va. E a tutti i giorni. Le genti non si fa dirigarsi su. Ehi, guarda. Guarda che non mi interessa a me, ma fatti nulla, se no l'avrei detto tranquillamente. Non ho paura di nessuno io. Se uno ascolta no, e non ci parla non succede niente, muovi i quattro bambini di faccia in culo. E vabbè, Anto, è meglio evitare. A me solo perché hanno visto la stazione mia com'era tantissimi anni fa, me ne hanno fatto tutti i colori e me ne hanno detto tutti i colori. Sono spaventato, guarda. Ma io non tratto il Baraure, no, io tratto a Cipatti. Io faccio quello che devo fare. Se viene a rompermi le scatole, uso altri fatti, uso. E vabbè, però c'è gente che non si fa i cazzi sui, no? Almeno guarda e zitto. Infatti la stazione che io ho qui non l'ha vista nessuno, perché non è fatto. nessuno, è roba privata e va. Ma che c'è già? Non penso che ci sia un problema. Capito? Sì, la gente è un po' carita, troppo stravagante, capito? Carità. Io già non ridimmo. Dobbiamo dominare un po' di palle, cazzo. E a quell'altro che ha messo la portante, Antu. Hola, stai aspettando. Ehi, a te parlare sopra, dille. Un po' meglio la casa. E già stai andando bene. L'ho messo a manetta adesso. Cos'è che hai messo a manetta? Un po', ho fatto un po' di potenza, dai. Sì, no, te lo sai, bro. Cappa. E aspetta che... ora, no, già va bene, dai. Ciao, Antonio. Ma ti fai per quel difetto, no? Negativo. Va bene. E ce l'ho portato con un fronte abbastanza forte. Cappa. Lascialo fare. Mi sa che... da Gigi ve lo posso vedere io. Ascolta, ho scoperto che cos'è, comunque devo cercare di isolarla più bene. Se entrata Eva, se entrata va in Loramara nella antenna di deposito. Infatti qualcosa è successo lì, qualcosa è successo, perché sei calato un bel segnale, capito? Ben sentito, e cosa vuoi? Vuol dire che gli è successo quello che gli è successo a me? Quelle antenne se non sono isolate bene, se le entra qua ti manda in corpo quella roba là, non te l'hai capito, è per un problema. E adesso sai cosa devo fare? Cioè, devo prendere e metterci il grasso come ho fatto a questa, che questa vede che non ne ha problemi. Non ha mai avuto problemi, devo prendere più gli appunti di un grasso nelle cose, almeno ci vuole l'acqua e non entra. È che non vulcanizzata, però evidentemente è entrata, quel po' già è entrata lo stesso, ma non ha male, vai. Vabbè, mettere un po' di grasso, qualcosa che isola, e vedi che già va tutto bene. Aspetta però che faccia qualche bella giornata, mi capite? Sì, devo aspettare. Perché non è una pompa, va forte, quando è a posto. E certo, devi vedere un pochino come la situazione. Poi già, sicuramente già va meglio, dai. Gappa. Va bene, dai, riprendete che io sono qua e sto lavoricchiando. Vediamo un pochino, sto uscendo bene, sì. Uno, due, tre, quattro. Aspetta che ho entrato appena la radio, ma un pelino, ecco qua, così che mi piace di più, va meglio, no? Va benissimo, va. Sono messo intenzionato a comprare due Venom, come quella che c'ha Franco. Vedi, io... non li posso buoni, devo mettere antenne leggere, capito. Se metto quella sicuramente cambia la musica. E cambia sì, perché 5 ottavi quella lì la meno. Capito. Rende di più di quella che c'hai adesso. Sì, c'hai ragione. Poi se è leggera, capito. Questa non te la consiglio perché c'ha lo stesso difetto che può entrare l'acqua. E ti fa quel difetto lì. Ti fa. Marco, un amico mio ce l'aveva e gli ha fatto lo stesso difetto, l'ha dovuta buttare via. Neppure accetti, ce l'hanno fatto buttare. A me non entra. E vedi, Marcolino è stato fortunato, vedi? No, non gli ha fatto nulla. Invece a me mi è entrata l'acqua, a Marco Scorpio lo stesso, ce l'ha dovuta buttare. Addirittura una che ne avevo in campagna di queste qui, lo sai cosa è successo? La salsedine che proveniva dal mare mi ha marcito il bocchettone dell'antenna, dove attacchi l'antenna, no? Me ne farà drugare in terra. Proprio marcito me l'ha. Cosa gli hai fatto? L'ha buttata via. La Mantova Turbo addirittura 3 volte nella scesa, perché mi marciva tutto, là lì il vento, lo so quando tocca, e saliva pure la salsedine del male, mi marciva le antenne in campagna, qua, una disgrazia era. Vogliono, come si dice, isolate bene, se no te le rampe. Già erano isolate bene, il piattello me l'ha marcito dove ci sono i radiatori della Mantova Turbo, marcito me l'ha, anche quello, figurati, infatti nella più gravata da voi a Ravini e mi avevo messo la Mantova 5. Ma se l'hai isolata bene la Mantova 5 è buona ancora. E in campagna è sempre, se non è parata dovrebbe essere lì. E adesso sono un bel po', ultimamente già c'era. Ma per scenderne la quell'antenna lì bisogna salire sul tetto, fare scendere giù il pezzo da 6 metri perché sopra un palo da 12 metri. E lo fai scendere e la smonti. E poi dalle tappe ne togli il palo. Sì, lo vivo la Laureano fa la milizia. Ah, ho un bullone, devi togliere il bullone passante che c'è, ne c'è del palo da 6 metri. Capito? Lo sapevo, non vivo nulla. Ma se è andata la gabbia ne a fare. Infatti non c'è problema per quello. Caffa. Io non me ne frega nulla, ma me ne bufferà più. Se c'è una direttiva 12 elementi per VHF su in campagna, che è bellissima quella direttiva ed è in terra, e chi sarà marcita adesso? Scusa, come non ci stai salendo qualche volta? Problemi? Alle mani siamo arrivati per poco. Ma vai, cazzo, Natale, ma quando mai? Cioè, ognuno deve avere il suo pezzo. Cioè, uno è tu vai chinto, io faccio chizzo e ciao, cosa stiamo lì a arrivare alle mani? Ti sto dicendo che stavamo arrivando alle mani. E io mi conosco, poi gatto perdo le tappe e quando perdo le tappe in quei 10 minuti, in quei 5 minuti che mi salgono posso fare delle sciocchezze, è meglio che mi sia calmo. Sì, ma non vedo che sia il problema, un pezzo è tuo, un pezzo di Guido, cioè ma cosa vuoi? E sono gli altri che sono ignoranti, capito? Non è colpa mia, anzi. Io sono andato a andare per via legale, però si rimbalzano macchine. E per poco siamo arrivati alle mani, c'era anche mia moglie. Il giorno che... Però per niente poi. Sto dicendo che cazzo guarda, meglio la morte. Infatti non ci salgo più, non ne voglio più sapere, si può frasicare tutto. Sì, a me viene voluto, come? Il pezzo mio è mio. cioè, te ne puoi andare pure in Amara, te ne puoi andare, cioè, ma ti guardi che io, cioè, io, quello che è mio, se lo basta, arrivo legale, però che ti passa tutto quanto le macchine, e per quelle cose che stai dicendo ci vogliono una barca di soldi, e la causa esce dopo 30 anni, quando sono già morto. Così non attari. O se no, meglio me l'avrei venduto quel pezzo. E infatti farò così, lo venderò a loro stessi. Guarda, dammi tutto, dammi. Prima te lo fai periziare da qualcuno, no? Vedi, forse nero, li bruci che vuoi niente. E te lo fai periziare da qualcuno, perché a voi il cazzo te la buono in culo a te e me. Non è che tu puoi vendere come vuoi, no? Lo fai vedete da qualcuno, mi se lo volete, il suo petto, tutto. Se lo pulite, mi date tutto. E se non lo vendo un altro, e così c'è gente estranea, e si affarranno pure estranei. A me non me la putti nulla. Cosa te lo tieni a fare, Natali? E infatti, averla e non poterla usare, no, non fa. Non mi ha staccato un gobbo, io non è così, no. Tutti e due te ne vai dalla parte tua, io ce n'ho la parte mia e non me lo fai le palle tu a me, cioè vale male, allora a colpa di dubbio come te l'abbia fatte, lascia perdere Natali, cioè ognuno deve fare le cose giuste, tu non devi rompere le scatole a me e tu non devi, io non devo rompere le scatole a te. Sarebbe così giusto, solo che purtroppo ne ho due contro e non fa, capito? No, non ne gavi bene, mi dice a maniera di essere, poi tocca compromettersi, io poi gatto no, so che di chi si infiamma nei subito è meglio stare calmi, perché se no mi comprometto e non va bene. A chi tu lo sempre in occhi, lo becco? E a chi? A chi tu che va via, chi no per strana, una voce, ti dammi. Quello che è curi piccitti. E non ho più visto nessuno, io già ho capito, Angelo, stai dicendo. Sempre in occhi, Il corso... In corso Vicco, è ben chibile, lo vengo io. Ehi, vabbè, qua non si è più avvicinato quello lì, solo quando gli serviva cosa venivano a rompere le balle, ma hanno visto che Piazzeri non viene più per nessuno e quindi non si fanno più vedere. Vabbè, ma sicuramente no, non vivi più in Chibi. Che lo vengo sempre in occhio, lo vengo. Ciao Antonio. Ciao Fra. Allora. Ciao Antonio, chi c'è qua? Stavo sistemando, stavo arrabattando lo spinotto del microfono. Per carità, c'è un filo interrotto, la fa di luce. E a chi l'ha interrotto il mezzo, che si è? Allora, ragazzi, sai quando come lo muovevano uscito, tutto il filo, proprio al centro era interrotto, capito? Ehi, io vai andando di vedere, troppo vuoi ti butto. Ma tu è la prima, va bene, 1, 2, 3, 4. Se vedremo con il casino. Va bene, tu, non me la due, l'ho abbassato, perché era troppo forte. Ehi, forse. Vai da di lui, mi su cane, figlio di un cane, vieni qua. Prendi un poco di gasino questo microfono. Ma è gasino, va bene. È un bel forte. Troppo forte. Allora abbassarlo un poco, guarda adesso, 1, 2, 4, 5, 6. Ciao, troppo forte, così questo qua. Torna a scatola. No, già, c'era il filo rotto, capito, al centro. Buonasera a tutti comunque, mi stavo ascoltando, ma siccome mi ho fatto la doccia, c'avevo i capelli bagnati e mi stavo mettendo a posto. Fra, Romeo è ritornato a casa, lo sai. Bella, che l'ha trovato? Ma l'ha trovato, è andato andato in casa di una e me l'ha ritornata, mi hanno telefonato, l'avevo messo su Facebook. Perché sapeva che io andavo e lo prendevano e lui non voleva toccarlo. Mi dilla Franco. Sì, mi c'è via, ragazzi. Aspetta, quella, la femmina, quella che c'ho io, mi ha beccato stamattina, è uscita dal nido, mi ha attaccato il dito. Vattene mai. Ma quelli di ieri non è che facciano male più di tanto, perché hanno il becco piccolino e non è che ti fa male, però se ti acchiappano nel punto giusto già ti fanno male più lui. Ma i loro, il cavolo, fanno male, però loro sono domesticati, capito? Se la beccata gliela date perché aveva paura, magari era impaurito, non sapeva dove andare, era disorientato, capito? E allora, a me come mi vedeva subito apriva le ali perché mi conosceva, sono intelligenti, burbuzzinosi. Ed era una coccorita, era chissà di Franco, bella, come mi vedeva subito mi conosceva e sapeva che io andavo a pigliarlo, no, da dentro la gabbia, cazzo, no, pulia, subito mi ricurizzava immediatamente. Questa vede per il cipi cipi, guarda un po' di casino. Ma tu, questa non sta arrivando forte, ma attaccato sì. Non negativo, sono col grande. Sai, la modulazione, ma va, non ho più toccato di modulazione, no. Se c'è una radio, la paura, senza bene. No, per più di 9.30 sta arrivando. Va bene. Se no si rovinano. Sì, già, c'era qui l'interrotto, capito? Come lo toccavo, una volta non uscivo, un casino, guarda, me l'ha fatto uscire di più. Ma dove era, metà filo oppure era fine? Ah, metà filo era. Cioè, peccato quel filo perché era bello, va, fa un'altra, ma magari aveva un altro. Praticamente gliel'ho cambiato, capito? Quello che dovevi dare a me, no? Magari è giusto. No, non è un altro pure, già. C'è un altro, un altro e due. Può succedere tirandoli che magari ti si interrompe il filo. È successo anche a me. Vabbè, già sono cose irrimediabili, non dici ci siano i mari, bravo. Avanti, Tantalino. Eia, siamo qua. E cosa lui ci dica? Io da so, cazzo, lui va pure un ribolpetti, mamma mia. Ma io faccio il sugo ancora, a domani. No, mangiare polpette, oggi ho mangiato io, fritte, ragazzi, mi ha fatto mal di pancia. Quelle che faccio io, altro che mal di pancia, mi fanno. Mi non so se farle al sugo oppure... Perché se le faccio al sugo le faccio in un modo, se le faccio fritte le faccio in un altro modo. E sto buona a virus, che si può dire. Aspetta che fanno questa là, facendo altro. Sì, sono... le polpette sono buone, a me mi piace. Ma io la morte sua sono fritte, come un agrodolce. E a chiaro sugo, Mariso. Quelle che faccio io sono veramente di lusso. E infatti non ne faccio mai, o se mi pare a rusuraggio, no, che non si sa mai. Scappa. A me altro che con questo non mi ascolti. Bene. E me lo sai su bomba. Pompate, pompate, ve ne abusate perché sono piccolo e nero. E tu fatti grande. E forse c'è più un'antenna di gomma, sì. E allora? Se ne abusano perché c'ho l'antenna di gomma e non ne ho roba da attaccare. Puzzinosi tutti e due. A te l'immagini già, a te l'immagini qui. Questo scendo liscio, non so che attaccare, io non ne ho batti sotto. Questi sono i batti della radio e basta. No, di Paolo, no, sei tutto gatto cracchiante, si sente che attacca. Sei tutto cracchiante. No, è il coso, come cazzo fa attaccarci l'amplificatore lì? Spero che non sia quello particolare. Non ne ho io. Niente amplificatore qua. Normale. Abbassate, abbassate. Ciao cazzo. Cazzo, bianco per me un attimo. No, veramente, sto usando il... sto provando il 680 io, capito? Sì, ma... Buonasera a tutti comunque. Buonasera anche a te, dai. Bonsoir. Carlo, come mi ascolti lì alla tua stazione? Segnale fondo scala, radio super 5. Non ce n'è, non ce n'è. Io ti sento malissimo, forse perché siamo vicini. Non lo so, cosa... Già ti sento tutti bene, a te... Gracchiate proprio brr, brr, brr, brr, brr, così si sente. Già, forse perché siamo troppo vicini. Sto scendo a basso, è 20 watt sto uscendo. Scarichi. Ciao Claudio, buonasera. Allora solo tu mi ascolti male già, boh, strano. Claudio, come mi ascolti? Una bomba, radio 5, 9 più 20. Già, evidentemente ti manda in saturazione lo stadio finale audio. Ma con l'altro sentivo bene, strano. Già, cosa c'hai il... sto pensando da, se togli il quel filtro che c'è, già. Ehi, un attimo, sì. NB, togli, non c'è scritto il secondo coso, c'è scritto NB, NL, togli quello. Miau. Prova a parlare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prova radio 1, 2, 3. E adesso un po' meglio, ma sempre un po' gracchiato. Pia Claudio l'ascolto bene. 9.20, quasi a 9.25 la radio ottima. Perché siamo troppo vicini già, sicuramente va in saturazione qualcosa da te. E vabbè, dai, non fa niente. Gaba, gaba. Riprendi, ciao Claudio, buonasera. Ben sentito, vai. Vado un attimino a prendermi gli occhiali a controllare. Buonasera, buonasera a tutti, ciao anche a Carlo. E anch'io sto andando col gemello del tuo, sto andando col 140. Funziona abbastanza bene. Avanti Carlo, buonasera. Buonasera Claudio, passa un po' che stai entrando dentro casa qua. Non tocco mai niente io. Io questa radio, Franco lo sa, una volta sono regolate per me, va bene così, va bene così. Lo so, la modulazione di questa radio è fenomenale. MC60, Nike Game sotto la C, processore inserito. Buonasera Natalino, Franco e boh non so, forse c'era anche Antonio ma è andato via. Ho sentito che si è allontanato un attimo. Io qua, questo qua da quando l'hai regolato tu non l'ho più toccato, è sempre così, io l'accendo e buco. Non c'è niente a toccare di fra, una volta che la regolazione è quella, lo devi lasciare così com'è. KK. Allora, che si dice a Tartari, tutto bene? Uia, che faccio di avere un bravo, già perché oriente, insomma, un bravo di essere. Uia, finito poco fa di ascoltare delle direzioni. Adesso a domani. Oh, KK. Non stai riuscendo, mi sei passato a pigliarti, domani andiamo a prendere un caffè. Sei a casa solo, oggi dovevo scendere in campagna, non sono sceso perché stava piovendo di brutto e poi c'era anche freddo. Se freddo un freddo, ci sono stufa alle 4 io oggi, a caldaia alle 4. Di solito l'altro giorno stavo scendendo verso le 6, le 7, sino a 10 e mezza, 11 così, giusto per dare un po' di tempore. E tu ci ho acceso alle 4, è un freddo pure. Io ho quella stufa a coso, a pellet, lo stesso che è accesa, poi c'ho la zimbro che è in cucina è accesa lo stesso e a palla, c'è un caldo, c'è da morire qua. Ascolta, il pellet l'hai trovato perché non ce n'era da sciampare? Sì, avevo preso un paio di sacchi, una decina di sacchi, ma avevo tenuti di scorta qua. C'era solo la Sidernet, infatti mi sono fornito lì. Di solito mi fornisco a Canica, però sono dovuto andare lì alla Sidernet. Fa 2 ore di via, comunque l'ho preso lì, perché non ne avevo neanche io, non sapevo che c'era questo casino dei trasporti, quindi adesso spero che lunedì liberano tutto e quindi arriva nuovamente. Cattalino, Ma ne sarai tu, hai capito? Vedi bella. Hai visto che io ti saluto sempre, hai visto? Che io ti saluto sempre, Tattalino, hai visto? Dico sempre saluto e sei uno più bello, carissimo amico Tattalino. Carissimo! Cata vedi bella. Doppio lungo, hai preso gli occhiali. Quindi ho sentito che è tornato a casa Romeo, sono contento. Meno male, hai avuto fortuna che ti hanno chiamato, te l'hanno restituito, ma dimmi tu. E ho avuto una fortuna sfacciata qua, non ci speravo più. Tant'è vero che ne avevo già ordinato un altro. Adesso quando arriva lo tengo lo stesso. Però praticamente non avevo più speranze, mi avevo fatto il giro col cane perché il cane conosceva l'odore, il tugano. Ho fatto il giro col cane e tutte le parti. In quel punto sono passato 2 o 3 volte, perché era vicino a casa, era via Nubi, lì ce ne nascondo. Lo sentivo cantare, me ne sono accorto che era lui, però non riuscivo a vedere dove era, guardavo negli alberi, a tutte le parti, invece ce l'avevano le terrazze. E poi non è una cosa, non è un pappagallo facile da allevare, bisogna fargli una pappa particolare, perché sono pappagalli che sono nettarini e mangiano nettare e miele, questa roba qua. Lì si fa un impasto come per i bambini, come per il miruppa. Dai, sono stato lì, anche perché è un uccello particolare, capito, te l'hai preso da piccolino, te lo stai addestrando, insomma ci hai messo sacrificio, soldi e tutto, e poi insomma vedere una cosa del genere, quindi hai avuto fortuna, beh, meglio così. Esiste ancora gente maestra, molto bene. Carlo? Sì, Gianni, ma il pappagallino di cui mi parlava ieri te l'hanno restituito? Sì, l'ho messo su Facebook. Questa signora ha detto che ce l'aveva 3 giorni, dal giorno che mi è scappato, è andato nel terrazzo di casa sua, capito? L'hanno preso, dice che si è fatto prendere tranquillamente, perché vabbè, era domesticata. Si è fatto prendere e poi l'ha beccata, forse perché si è spaventato, non lo so. E niente, ce l'avevano 3 giorni, ma stavano guardando se qualcuno lo cercava, hanno chiesto. Poi un amico gli ha detto, guarda che su Facebook c'è un signore che lo sta cercando, ha messo anche il numero di telefono, adesso te lo do, gli ha dato il numero e mi ha chiamato, capito? Sì, ma loro hanno un pappagallo, praticamente glielo regalo, c'è un altro che ha 5 uova e glielo regalo uno, glielo ho promesso. Beh, almeno è stata onesta, dai, mi fa piacere, dai, sono contento che l'hai ritrovato, almeno c'è la coppietta di nuovo. Sì signore, benemera, benemera. Avanti Natalino, batti un colpo se ci sei. Già ci sono qua in ascolto, io in agguato. Arrivo subito, bravo Gianni, quello è un gesto che ti premia, va benissimo. Un attimino, arrivo subito, riprendi Franco. Franco ci sei? Ti desiderebbe essere spostato magari Franco. Io mi sono rientrato adesso e garage ho buttato giù un po' di calcinacci del muro che stavano cadendo e mi compro domani di quell'intonaco che diciamo tiene l'umidità e così non me ne scende più, se no tutte le volte ogni 2-3 anni me ne scende tutto quanto. E allora perché c'è l'umidità che sale lungo il muro, nel pavimento non ce n'è perché l'avevo rifatto nuovo giù in garage, ma c'è questo angolino che chissà perché si riempie di umidità e mi stacca tutto quanto l'intonaco, capito? Magari è a livello del terreno e quello lì magari l'umidità viene da fuori. Esatto, dall'altra parte c'è diciamo il cortile, sicuramente l'umidità di risalita, dai, perché i garage sono a piano terra. Quindi dovresti mettere un po' di quella varicchina, ma di quella pura, se la trovi, per pulire la muffa e cose. Poi una volta fatto quello, poi c'è anche quel spray anti-muffa, puoi mettere anche quello. E poi una volta che asciuga, mi dà una carteggiata e la più di nuovo. Mi farò così, infatti. Se no mi tocca proprio picchettare e dare l'intonaco proprio quello fino, capito? Poi quando asciuga lo tingo, faccio così ne esce muffa e tutto quanto, non sto neanche a dare varicchina. Col male peggio, capito? Lo picchetto tutto quanto, e tanto sarà 1,20 m, perché dalla porta allo spigolo, quindi è 1,20 m circa per una cinquantina di centimetri, quindi alla fine è un pezzo piccolino. Tu devi vedere come si è fatta la casa di mio compare lì a San Sorso la Nord. Hanno comprato un appartamento al pian terreno, non al pian terreno, al primo piano, solo che è a livello del terreno, si forma tutta la muffa, si attacca ai mobili, da tutte le parti, sono disperati. E sono andati alla Masnada, a Chimici, a Cagliari, e hanno preso questa varicchina pura, non diluita, è pura. Hanno passato quella, pitturato, e grazie a Dio sono già 2-3 anni che non si presenta più. Capito? No, ma da me non è muffa, è proprio umidità. Umidità non è che si macchia di nero, di verde, niente, si gonfia la vernice e scende giù, capito? E anche qualche pezzettino di intonaco si stacca. No, capito. E vabbè, dice, si può mettere una grappante, io l'ho fatto a casa, quello di sotto mi aveva fatto un danno allucinante, si è allagato la casa, è venuta la moglie, ciao, mi aiuto, che è successo? Tutta la casa mi si sta allagando, sono salito correndo, ho chiuso il rubinetto d'arresto, faccio la casa e era già tutta allagata, ho detto qua bisogna raccogliere subito, se no penetra nel pavimento. Beh, tu devi vedere come mi ha fatto la cucina, in un punto me l'ha fatto uscire così per la pelatura. E poi anche nella sala e nel bagno quello proprio grande. Mi ha fatto uscire, gliel'ho detto, ha detto che già me lo faceva, tu aspettatela, altrettanto io, l'ho aspettato ma non c'è mai venuto. Purtroppo la gente è così, capito? Non è mai troppo perfetta nelle cose, e quindi se tu causi un danno, insomma, non è che puoi stare così mano con la mano. Vai, chiedi, manda l'operaio, oppure a diretta giusti tu mi fai sapere. No, non è fa più così la gente. Comunque hai ragione, come la varicchina pura non ce n'è per la muffa, perché l'ho provata anche io, e varicchina pura ti toglie via tutto quanto e non si forma più niente. Hai trovato l'imprenditoribile, quindi non sarebbe costato niente mandare un muratore a far controllare il lavoro e fatto fare. Ci aspetta che asciughi, mi sta aspettando da 5 anni, poi alla fine mi sono deciso io, me l'ho fatto io. Mi ho messo una grappante, non l'ho stuccata, la verità, perché non ne valeva la pena, la pittura l'ho fatta. Ho messo una grappante per attaccare la pittura, l'ho fatto così. Avanti, Natalino. Io vi saluto che devo fare cosa. Già sto in ascolto, vi ascolto comunque. Va bene, Natalino, quando vuoi. corsa, già siamo qua noi chiacchierando. Allora, avanti Antonio. Capo, io devo fare il bianco e ci siamo noi, ci sentiamo dopo, ok? Va bene. A te Claudio, il Michelin. Ciao Antonio. Ciao Antonio. Claudio forse si sta facendo qualcosa. Siamo rimasti io e Gianni. E Franco, ci sei? Tutti fuggiti sono. Tutti fuggiti davvero sono. Sono contento comunque del pappagallo. Proprio ieri ne stavamo parlando, no? Che ti era fuggito, maledetto, eccetera. E invece oggi te l'hanno restituito, così già. Sì, stamattina mi ha squillato il telefono e dice buongiorno, buongiorno, pensavo fosse i suliti della pubblicità. Ascolti, ma lì dice, ha preso un pappagallo, ha detto sì, mi è volato un pappagallo lui. Mi ha detto guardi, l'ho trovato io stavo cercando, non trovavo nessuno, e me l'ha detto un amico che aveva messo il numero di telefono su Facebook. Niente, io la sto prendendo a prendere, ma lontano, e mi ha detto no, a due passi da lì, proprio via Rubi, lì. Sono andato, sono andato a piedi a prenderlo, ho preso il trasportino, sono andato e me l'ho preso. E gli ho detto, ho l'altro, praticavo l'altra coppia che c'ha 5 uova e uno ve lo lascio per voi. Non c'è problema, ve lo regalo. Dice, ah, ci fa piacere, se ce lo regala, c'è un coniglio anche loro in casa, ma bello, ci aveva queste orecchie particolari, tipo cocca ce li aveva. Bello, veramente bello, si è fatto accarezzare, di solito sono molto timidi i conigli, questo si faceva accarezzare. Ho capito, poverino, magari era anche spaventato perché era disambientato, dai, però non si era allontanato molto, vedo. Te l'ho detto, quello o ritorna, magari se trova la via o magari sente il richiamo dell'altro, capito? Non si era allontanato, magari un po' il freddo l'ha fatto rifugiare da qualche parte, l'hanno trovato, meno male, dai. No, ma... No, Carlo, è dal giorno che è scappato a me che ce l'hanno loro, capito? Quindi è andato subito lì, in quel terrazzo, loro l'hanno visto e l'hanno acchiappato. L'hanno messo in una gabbia per conigli, perché non avevano altri tipi di gabbia, e quest'amico loro che c'ha dei pappagalli gli ha detto che cosa dare da mangiare, gliel'ha portato lui perché ce l'aveva, e gli hanno dato, però glielo hanno fatto troppo liquido nel mangiare, vabbè, ma quello non mi interessa, adesso già mangia tranquillo. Mi hanno fatto la pappa liquida, sembra vacua, e quindi non è che ha avuto molta sostanza, capito? E ha mangiato sì, ma sempre roba molto liquida. Di solito si fa la pappetta come il miruppa, te l'ho spiegato, come si fa con i bambini, si mettono due cucchiaini e mezzo di polvere e appena appena d'acqua, poi si fa l'impasto, si dà quando risulta tipo uno yogurt, per intenderci, non si deve mollare. Beh, la dieta sua ci vuole, c'è poco da fare. E vabbè, dai, tutto bene, quel che finisce bene, meglio così. Va bene, oggi niente, oggi sono di riposo, anche se sto facendo mille cose, quando c'è un giorno libero ne approfitti e su e giù e qua e là e spesa perché è sabato, insomma, adesso un attimino, è che ero giù, sono salito, mia figlia era uscita, mia moglie non la trovo a casa, deve essere uscita anche lei, e sono con mio figlio soli soli. Vabbè, dai, ci facciamo un paio di ore con la radio, già va bene lo stesso, anch'io mi sto rilassando, mi sono fatto una bella doccia, ho fatto i capelli, adesso sono profumato, ordinato, e mi sono sdraiato un po', e mi sto rilassando, mi sto scaldando un po' con la coperta. Io no, a casa diciamo abbiamo il riscaldamento quello del condominio, e parte alle 3:30, quindi c'è un caldo, sono in maglietta qua su, perché giù ero diciamo senza riscaldamento in garage ovviamente, e quindi ti abitui a quel clima lì, come sali su scoppi dal caldo, e quindi mi metto subito leggero, se no mi ho bevuto una birretta fresca che c'era in frigo, di quella non filtrata Ichnusa, che è un po' di 70, dai, non è che ne bevo 80, però ogni tanto un bicchiere me lo faccio. È fatto bene. Non esagerare fa bene, dai, va bene, se uno non esagera, diciamo le quantità giuste non fanno nulla. Anche noi abbiamo quello del condominio, solo che qualcuno si è lamentato che era troppo alto, quindi l'hanno regolato e rimane tiepido, proprio non è questo caldo afoso, cosa. Prima vabbè ti faceva vedere la faccia rossa, era troppo alto, però adesso l'ho fatto come ti risussi, ho troppo nuda. Sì, anche qua diciamo sono sceso io a abbassarlo, perché me l'hanno chiesto alcuni condomini, siccome le chiavi anche del locale caldaia, se no ci tocca chiamare l'amministratore, che chiama il manutentore, un sacco di giri. Tanto nella caldaia sopra c'è la manopola ed era a 85 gradi, c'era un caldo da crepare, ho preso e l'ho abbassato a 65 e diciamo che poggi la mano sul radiatore e resiste qualche secondo e poi magari scalda e la devi togliere, così va bene. Invece prima come la poggiavi la toglievi subito, perché erano roventi, capito, e non faceva stare, e poi era anche uno spreco, perché la gente poi stava con le finestre aperte, con quello che costa il gasolio adesso bisogna diminuire un pochettino e consumiamo di meno, e gliel'ho abbassato a 65 da 85. Ma non l'ho trovato da rosso. Io te l'appoggio. Sì, Antone. La gente che ti ho fatto vedere. Perché vi siete sovramodulati, non ho capito, Antone. Ho detto se ti hai comprato quella roba che ti ho fatto vedere su telefonino. Ho negativo, perché praticamente ho visto le misure, lì non c'erano, però poi me le sono cercate e non mi ci entra quello, è troppo largo, capito, nel mobile, e quindi dovrò optare per qualcosa di più compatto, capito, quello lì era troppo grande anche perché aveva una maniglietta laterale, capito, e quindi avrei avuto problemi, capito. Ma l'hai fatto, quello, e quel pezzo lì ha regalato, era la verità, comunque sia. Va bene, avanti che ce ne calare, buonasera. Allora ti parlo di 54, chi è? Ho detto quell'affare, l'ho risolto. Quindi come ti ho detto io funziona adesso? Ho cambiato, c'era il condensatore a pastiglia spaccato, capito? Gliel'ho cambiato, che ne avevo uno qua e gliel'ho cambiato con l'impedenza lì. Hai visto? Almeno sei tranquilla. Avanti Gianni, cosa hai detto? Oh, non ho preso nulla, si sente il rumore, non lo so cosa sia. Vabbè, non niente, non ho detto niente di particolare, meno male che non li hanno trovati arrosto. E guarda che sono stato un ecco, mi sembra stato che mi senti rumore a me. Avanti, Franco. E questa sera la riprendo io. Sì, allora si sente un rumore di vetro. Ah, aspetta, scusa, c'hai ragione. Aspetta. Due secondi, adesso non c'è più, a posto adesso? Tutto volume, intendo che Terry cosa avrebbe? Sotto a fondo abbassa il microfono! cosa devo abbassare? Adesso poco da abbassare con questo microfono. Intende tutto il sottofondo, burro e mattonelli, si intende che hanno gammini. Allora. Vabbè, è stato un eco questo, quello che ho io. Non ci posso fare niente. Ma poi anche a terra allora. In trasmissione va a bomba, adesso devo sistemare la questione della ricezione, che mancano 10 dB di guadagno. E quindi adesso appena riesco a trovare la risposta giusta, torna come prima. Tutto il resto tutto a posto. Si adatta.